Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova, a cura di Andrea Canton. Domenica 29 aprile verrà beatificato a Roma, nella Basilica di San Paolo fuori le mura, l'economista e sociologo trevigiano Giuseppe Toniolo. Agli onori degli altari viene portato un uomo di pensiero, un professore universitario, una persona che si è adoperata per il bene comune in termini di profonda riflessione, che si è addentrata in campi dell'azione umana dove è molto difficile farsi santi, il campo dell'economia e quello della politica. Non propriamente una tipologia di santo dunque a cui siamo abituati o che troviamo facilmente sotto forma di statua nelle cappelle laterali delle nostre chiese o magari sotto forma di santino all'interno dei nostri portafogli. Ma chi era Giuseppe Toniolo? Nato a Treviso nel 1845, si laureò in giurisprudenza a Padova, ma si occupò poi di economia. Insegnò infatti economia politica a Pisa dal 1883 fino all'anno della morte, nel 1918. Non fu solo un professore, fondò infatti a Padova l'Unione Cattolica degli Studi Sociali, collaborò con l'Opera dei Congressi e diede l'avvio alle settimane sociali dei cattolici italiani che vengono organizzate ancora oggi. E per molti questo professore, vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, è il vero precursore e ispiratore di tutto quell'impegno in politica, in economia e nel campo sociale che i cattolici avrebbero prodotto nei decenni seguenti. Parleremo di Giuseppe Toniolo con Alberto Ratti, presidente nazionale della FUCI, Federazione Universitaria Cattolica Italiana, ma prima ascoltiamo un brano della Populorum Progressio, che sembra proprio cucito addosso all'economista veneto. Dalla Caritas in Veritate di Benedetto XVI. Paolo VI aveva visto con chiarezza che tra le cause del sottosviluppo c'è una mancanza di sapienza, di riflessione, di pensiero, in grado di operare una sintesi orientativa per la quale si richiede una visione chiara di tutti gli aspetti economici, sociali, culturali e spirituali. L'eccessiva settorialità del sapere, la chiusura delle scienze umane alla metafisica, le difficoltà del dialogo tra le scienze e la teologia sono di danno non solo allo sviluppo del sapere, ma anche allo sviluppo dei popoli, perché, quando ciò si verifica, viene ostacolata la visione dell'intero bene dell'uomo nelle varie dimensioni che lo caratterizzano. L'allargamento del nostro concetto di ragione e dell'uso di essa è indispensabile per riuscire a pesare adeguatamente tutti i termini della questione dello sviluppo e della soluzione dei problemi socio-economici. Bentornati carissimi ascoltatori, siamo in collegamento telefonico con Alberto Ratti, presidente nazionale della FUCI. Grazie per essere con noi. Grazie a voi e buongiorno ai radioascoltatori. Nel brano che abbiamo appena letto, Paolo VI sottolinea il fatto che per lo sviluppo non c'è bisogno solo di tecnici, ma anche di uomini di pensiero capaci di riflessione profonda e che ricerchino un umanesimo nuovo nel quale l'uomo possa trovare i suoi veri valori. Sembra un brano cucito addosso a Toniolo. Secondo lei è così? Assolutamente sì, perché Toniolo ha ben coniugato questo ben pensare con il ben agire e lui riteneva imprescindibile il ben pensare, cioè proporre un programma, un sistema anche proprio di valori, sistema economico, un sistema democratico, e studiò per cercare appunto di proporre questo sistema e di far pensare le classi cattoliche di allora. Tra l'altro questa citazione che voi avete letto, no, di Paolo VI, viene anche ripresa nell'ultimo numero della Caritas in Veritate, quindi anche Benedetto XVI si trova sulla stessa identica linea e sottolinea come oggi il mondo abbia bisogno di persone capaci di pensiero, cioè capaci innanzitutto, prima di agire, di pensare, di studiare. E da questo punto di vista Toniolo è un esempio mirabile. Prima di entrare nello specifico sulla vita del prossimo beato, le faccio una domanda. Lei è presidente della FUCI. Sì. Perché Toniolo è una figura così significativa per voi come associazione? Perché Toniolo possiamo dire essere stato un po' il nostro padre fondatore, colui che per primo, a fine del 1800, sostenne nascita dei circoli universitari e la nascita della Federazione Universitaria Cattolica. Fu lui che fece entrare in quella che era allora l'opera dei congressi, il coordinamento del laicato cattolico, fu lui a far entrare la federazione e la sostenne sempre anche contro chi la vedeva molto giovanile e molto democratico cristiana, molto modernista. Sono gli anni di fine pontificato di Leone XIII, gli inizi di Pio X, quindi anni comunque difficili e abbastanza tormentati. Toniolo, che era professore universitario, credeva molto negli studenti universitari e credeva molto nei giovani. Questo è un insegnamento ulteriore che dovremmo fare nostro anche nella Chiesa di oggi. Questo valore di giovani, insomma, che ci ha ricordato con molta insistenza anche in pontificato di Giovanni Paolo II. Esatto. Ecco, poi l'ultima questione che lega Toniolo alla FUCI è che è stata proprio la FUCI nel 1933 a promuovere la causa di canonizzazione. Quindi si è fatta lei promotrice, poi insieme immediatamente all'Azione Cattolica, all'Università Cattolica, del processo di beatificazione. Questo perché fin da sempre la FUCI ha visto in Toniolo un padre, una guida, che sapeva coniugare in maniera esemplare, e lo dicevamo prima, quell'aspetto dello studio e della fatica del pensare con un agire, una creatività uniche e rare. Come affronterete la festa di domenica 29 voi giovani universitari cattolici? E noi avremo il nostro congresso nazionale a Urbino dal 25 al 28 aprile e poi ci trasferiremo tutti quanti in pullman da Urbino a Roma proprio per festeggiare e ringraziare il Signore del dono della vita di Giuseppe Toniolo. Saremo in piazza poi anche sabato sera, il 28, in piazza San Pietro per la veglia che ci sarà con tutti i giovani. Grazie infinite, ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova. Bentornati carissimi ascoltatori alla 15ª puntata del Bene di Tutti Parliamone. Siamo in collegamento telefonico con Alberto Ratti, presidente nazionale della FUCI, e stiamo ripercorrendo la figura del prossimo beato Giuseppe Toniolo. Alberto, può aiutarci un attimo ad inquadrare la figura di Toniolo rispetto alle realtà ecclesiali della sua epoca, per esempio l'opera dei congressi e le settimane sociali che durano tuttora? Sì. In quegli anni, appunto fine del 1800, il coordinamento organizzato dei laici era l'opera dei congressi, che era questo grande contenitore all'interno del quale siedevano le più grandi e importanti realtà ecclesiali dell'epoca, fra cui poi anche casse rurali, banche cooperative e così via. Toniolo, appunto uomo del suo tempo, si impegna subito attivamente all'interno dell'opera dei congressi e qua si trova a dover, come dire, fronteggiare due grandi linee di pensiero: la linea intransigente, che erano coloro che non volevano assolutamente trattare con lo Stato italiano, la questione romana è ancora tutta aperta e al di là del divenire, e poi invece una parte invece più transigente del laicato cattolico, che aveva invece questa predisposizione più dialogante nei confronti del nascente Stato italiano. Toniolo fin da subito si pone a metà strada, cioè cerca, tramite questo appunto suo desiderio di riunire in comunione le diverse sensibilità, tenta in tutti i modi di trovare dei punti di convergenza e dei punti comuni. L'opera dei congressi dura fino al 1904, quando Pio X la scioglie, e un'altra nuova modalità con la quale Toniolo cerca di impegnarsi sono le settimane sociali. Nel 1907 vengono fondate, la prima si tiene a Pistoia. Sì, era un'epoca abbastanza delicata per i cattolici impegnati, appena usciti dal Concilio Vaticano II, lei ha ricordato la questione romana e poi anche il famoso non expedit, poi chiaramente anche accelerazione sinistra come il modernismo. Che cosa rappresenta l'azione di Toniolo in questa chiesa appena uscita dal Concilio Vaticano I, che si è interrotta abbastanza bruscamente con la breccia di Porta Pia in questi anni, insomma, di difficoltà anche per il rapporto tra Chiesa e Stato? Per Toniolo rappresenta sicuramente una fatica anche della comunione, cioè cercare sempre di porre come punto di convergenza delle idee che potessero andar bene ed essere comuni a tutto il movimento cattolico. Su questo lui si impegna tanto, a volte anche pagando sulla propria pelle questa predisposizione al dialogo continuo e al rispetto anche delle posizioni altrui, e lui rappresenta, ecco, il culmine, il punto di raccordo di tutte le sensibilità, di tutte le realtà laicali cattoliche di quegli anni. E rappresenta, ecco, il grande pensatore, diede anche una mano nella stesura della Rerum Novarum, la prima enciclica sociale di Leone XIII, e fu tenuto sempre da conto dai pontefici dell'epoca. Corresponsabilità dei laici è un termine ancora non utilizzato, che verrà in auge molto dopo con il Concilio Vaticano II. Quale fu il rapporto di Toniolo con la Chiesa più istituzionale, con il clero dell'epoca? Riuscì in qualche modo a ritagliare, ad essere insomma un precursore di quei laici impegnati del secolo successivo? Sicuramente lui ha anticipato molte delle novità che poi furono approvate nelle costituzioni conciliari. Diciamo che lui ha anticipato da questo punto di vista il Concilio Vaticano II, obbediva, era molto legato al vincolo di obbedienza con la gerarchia, in particolare col Santo Padre, però da questo punto di vista c'era sicuramente un dibattito, un aspetto dialogico anche con i sacerdoti di allora, forse molto anche più attivo, più combattivo di quello dei nostri tempi. E ciascuno, ecco, nei propri ambiti, nel proprio campo, chi quello spirituale, chi quello secolare, ma Toniolo da questo punto di vista ha sempre tentato, innanzitutto nella sua interiorità, ma poi anche all'esterno, di trovare un'unità ai due piani, partendo sempre dalla consapevolezza che i due piani fossero distinti, e anche questo poi uno dei valori, dei capisaldi che ritroviamo nella apostolica Mactuositatem e nella Gaudium et Spes. Insomma, questa corresponsabilità, che chiaramente non significa fare entrambi la stessa cosa, ma essere attivi entrambi nei propri campi, chi nel campo del sacro e chi nel campo del profano, ma con gli stessi valori, insomma. Sì, esattamente, esattamente. Le faccio una domanda più difficile, ma che è di stretta attualità da 151 anni a questa parte, ovvero il rapporto tra cattolici e politica. Inizialmente non roseo e poi negli anni è migliorato fino ad arrivare, insomma, all'epoca di Don Sturzo e poi di De Gasperi. Toniolo, pur vivendo ancora i tempi del non expedit e vivendo ancora prima che Sturzo producesse il suo movimento, si può dire in qualche modo che abbia fatto politica? E in che senso? Assolutamente sì, anzi, lui ha fatto politica proprio in senso lato, in senso più ampio, cioè si è occupato del bene comune. Chiaramente a quei tempi col non expedit era impedito ai cattolici di potersi impegnare direttamente in politica e quindi di candidarsi o alle elezioni politiche o alle elezioni amministrative. Ma Toniolo, con questo suo desiderio, ecco, di creare cultura all'interno delle masse cattoliche, cultura politica, sicuramente svolto in maniera limpida e una testimonianza di impegno politico alto, e questo gli va sicuramente riconosciuto da tutti e gli è stato poi anche riconosciuto successivamente. Cosa gli devono i cattolici impegnati in politica dopo di lui? Non solo i cattolici in politica, quelli dei nostri giorni, ma anche i primissimi, parlo proprio di Don Sturzo, di De Gasperi. Gli devono tutto, sostanzialmente gli devono tutto. Ancora noi oggi la maggior parte delle realtà esistenti devono la loro origine a Toniolo, e i cattolici di allora devono a Toniolo questo, cioè l'aver pensato a un sistema di valori, a un sistema di idee che potesse poi dare gambe all'azione politica. Pensiamo che il termine democrazia cristiana, intesa non come un partito, né un'ideologia, ma come un'idea cristiana della democrazia, fu proprio Toniolo a inventarla e a riempirla di contenuti. Il programma di Milano del di fine del 1800 contro il socialismo erano proprio delle idee non solo etiche e ideali innanzitutto, ma poi anche proposte politiche rispetto tutto al tema della questione operaia, che in quegli anni era fortissima. Nella nostra mente abbiamo un'idea specifica di santo, di beato. Fino a qualche anno fa non solo le santificazioni ma anche le beatificazioni avvenivano in piazza San Pietro con Giovanni Paolo II, e vedevamo questi manifesti, queste grandissime immagini di sacerdoti, di suore, di missionari. Vedere insomma, non a San Pietro ma fra qualche giorno, questa immagine di un professore universitario può in qualche modo non dico fare impressione, fare impressione, ma in senso positivo. Perché la Chiesa ha voluto riconoscere la santità di Giuseppe Toniolo, non solo riconoscendo comunque la santità privata, ma una santità pubblica da onorare sugli altari? Ecco, io su questo ho da dire la seguente cosa. Quando la Chiesa beatifica o canonizza, no, dei personaggi, non lo vuole fare innanzitutto per quello che hanno fatto nella loro vita pubblica, ma innanzitutto per come hanno vissuto in maniera piena la loro vocazione battesimale. È questo che dobbiamo ricordarci, l'aspetto spirituale, il rapporto intimo con il Signore che ha caratterizzato sempre tutte le scelte e tutta la vita di Giuseppe Toniolo, ed è per questo che lui viene beatificato, proprio perché in pienezza ha vissuto la sua vocazione alla santità. E senza questo aspetto di intima unione con il Signore, di intima preghiera con Lui, non capiremmo il Toniolo professore, non capiremmo il Toniolo padre di famiglia, non capiremmo il Toniolo impegnato nel movimento cattolico. Questo è l'aspetto più rilevante e è da esempio proprio perché ci permette poi a noi giovani universitari del 2012, a noi credenti del 2012, di fare anche sulla nostra vita il punto della situazione. Rispetto anche all'esempio di Toniolo, ci dobbiamo sempre domandare, ma noi, nella sequela di Cristo, a che punto siamo? Ed è questo il motivo per cui la Chiesa beatifica e ci indica come testimoni queste grandi figure di santità. Permetta che però è sempre bello vedere agli onori degli altari, senza nulla togliere ai consacrati e religiosi che chiaramente hanno un ruolo veramente rilevante nella vita della comunità cristiana, però vedere un professore, un uomo così di pensiero che in qualche modo si fa santo nei campi dell'economia, nei campi della politica, nei campi della sociologia, fa ben sperare anche per chi si impegna nella dottrina sociale come noi che facciamo questo programma ogni settimana. Sicuramente, anzi, io sono molto contento appunto proprio perché è professore universitario e in un campo come quello dell'economia, che è lontano, solitamente diciamo essere lontano dalle leggi evangeliche, il Toniolo ha saputo incontrare e portare anche lì il messaggio evangelico, e la gioia sia della FUCI ma la gioia penso della Chiesa italiana tutta è veramente grande per la beatificazione di questo grandissimo laico. E può essere anche una speranza che molti impegnati nel suo campo seguano almeno in maniera infinitesimale il suo esempio. Assolutamente, io appunto studio economia, quindi cercherò di seguirne le orme. Glielo auguriamo di cuore, grazie infinite Alberto per essere stato con noi. Grazie a voi e grazie agli ascoltatori. Ricordiamo che alla beatificazione di Toniolo si recheranno anche delegazioni provenienti dalle nostre diocesi venete, in particolare Treviso, Vittorio Veneto e Padova. La delegazione di Padova, in un vero e proprio pellegrinaggio, toccherà Pisa e Roma, in un viaggio che inizierà sabato 28 e terminerà lunedì 30 aprile. Per informazioni e iscrizioni potete chiamare l'ufficio per la pastorale sociale del lavoro della diocesi di Padova al numero 049 877 1705, ripeto 049 877 1705, il pomeriggio dalle 15 alle 18:30. Ci troveremo nuovamente martedì prossimo, sempre alle 18:25, sulle frequenze di Blu Radio Veneto, per un'altra puntata dedicata alla figura del prossimo beato Giuseppe Toniolo. Oggi ne abbiamo ripercorso la vita, settimana prossima con Maurizio Padovan, direttore del centro che porta il nome di Toniolo, analizzeremo le sue idee e le sue profonde innovazioni nel campo della politica e della sociologia e dell'economia.